niente, dai. Aspetta, se sta vicino a qualche baracchinetto tuo, dai. Va bene così. Poi stavate facendo bene, ok. Per me no. Cioè non è facendo male, però non mi piace la modulazione, non ti si addice proprio. No, c'è da dire, ma tu mi stai ascoltando con l'autopalantino del baracchino, però Lu? No, ti sto ascoltando la cassa esterna io, non con l'autopalantino del baracchino. Ma non è detto che era più familiare, più naturale rispetto all'MC60. Ma fai la prova, cancia l'MC60 e poi usi questa, vedi la differenza. Un secondo vi impiego. Vai. Questo è 60. Ma passaggio? Cavalieri, questo è MC60. Un abisso. Sai cosa vuol dire un abisso? Un abisso. Ma perché è più forte o perché è più naturale? È più bella roba, è più bella spinta e non c'è paragone qua. Una bella differenza, confermi Pompo. Ehi, ma da sotto la tago Cuba, l'MC60. Un po' perché più bassi c'ha e modulazione molto più forte. Però va bene lo stesso. Qualsiasi microfono va bene, infatti funziona. Capo, ma normalmente è un po' più basso l'MC50, per quello che vi sembra più brutta la modulazione. Ma sto a metà da vedere l'MC50, vedere che differenza c'è da 60, dai, vediamo un po'. Memorizza questo e poi attacco l'altro, un secondino, questo è il 60. Eia. Allora, questo è il 50, aspetta che l'alzo un peluzzino, guarda, hai cambiato qualcosa? Dove va con la povera? Non voglio che diventi fastidioso, però. Ah, sta fischiando, ti fa niente. Sta fischiando? Sì. Abbassiamo un pochettino, guarda adesso. Adesso va bene. Sarò piena, questa è più o meno combattimento, dai. Ah, io sono quasi uguali, c'è una di tonalità diversa, ma dovete concedere che quello lì è un MC50 ed è stato fatto un circuito di preamplificazione uguale al 60, però vanno bene tutte e due, dai. Non si può mettere, Claudio, il microfono vero e proprio, la testa del microfono del 60 al posto del 50, sì, l'avete mai fatto? No, c'hanno l'attacco diverso. Ah, non lo so allora, come non detto. C'hanno l'attacco diverso, te l'ho già spiegato, Roberto. Una 8, l'altra 4 sopra. A 8 è in uscita sulla radio, a 4 sopra. Mentre 60 è a 8, è a 8. Non l'ho mai tirato fuori, per cui non lo conosco il 50. Ma va bene, leggermente più o meno da combattimento, ma va bene, la tonalità è la stessa, dai. Perlomeno io qua con K ti ascolto così. Vado a pappare, ciao. E io. Ciao, grazie. Già ti conservo, vabbè, il microfono che usano da USB, che ti piacerò. Va a 24 volts, va. L'unica cosa che ci manca la capsula perché c'è la rotta. Ma 24 o 48? 24 va. Perché non scrive del microfono? No, l'ho provato. È un microfono di quelli che si usano nei supermercati, capito? C'ha due pulsanti, c'ha due lette, uno rosso e uno verde. Ho controllato il circuito, c'è scritto 24 volts e qui c'è il cavetto lungo senza essere con la spirale. E c'è lo spinotto a 5. Io ne ho uno così bello, pesante, mezzo a 4 kg, la testa è uguale all'MC60, molto simile, che si può smontare proprio a vitatura, c'è una base triangolare sotto, bello pesante ed era di qualche supermercato, qualcosa, ma bello grosso, della RCF, una bista, chissà quanto costava quel microfono, è uguale alla testa dell'MC60. Quelli là sono belli i microfoni. Non l'ho trovato quando sono passato lì a Carmonazzi, di solito mi capita, anzi capitava, è molto difficile trovare qualcosa buttato in terra. Quando ho detto questa cosa ci ho trovato, io ho visto questo microfono, poi sono andato a casa. Io c'era un televisore di quelli con cinescopio e poi ho visto a fianco c'era un ricevitore del Marcato Audiola di V3, sì. Però l'ho provato e non si riceve nulla, capito? Deve essere modello vecchio MPG4. Ciao, Luca, cosa ci sei? Luca! Ecco, dove deve essere con Antonio, sta facendo una computer di parte. Sì, giusto, l'ho detto poco fa. Team Viewer sta facendo. Comunque la radio che sto facendo adesso, Antonio, è perfetta. Questa è un'altra ancora. Questo è il 2009, con l'MP più 4. Si riconosce perché c'è il DP 4 ottori. Allora, bellissima, naturale, bella, come ecco ti dico io sempre, quando trovi la cosa giusta non tocca nulla, che è perfetto. Ci sono tutti a posto gli apparecchi, grazie a Dio, adesso sono perfetti, il Saturneco c'è bene, e c'è bene anche il 2009, e poi l'altro, il Comet 4000 e con il microfono palmare, e c'è bene anche quello. Sono tutti e tre che sono bene, grazie a Dio. Il problema della ricezione l'ho risolto dal trimmer, gliel'ho sistemato e è perfetto adesso. Tutti i due pezzi che ci hanno bruciato gliel'ho cambiato, gliel'ho messo in uso e tornato come prima. Ma questo è quello di Carlo del 2009? Quello che ho aperto a Carlo, sì, il 2009. E lui c'ha il tuo Saturneco? E gli ho detto ieri, aspetti che ho un Saturneco, ho detto, e lo provvedo, così voglio vedere come esce. Gli ho detto che io a casa non è che me lo posso vendere conto, ho detto, cioè, avrei dovuto piazzare l'altro baracchino con le cuffiette e poi rischiare che in pratica fischia, capito, mi faccia rientro di radiofrequenza. E quindi ho detto, usalo, provalo, ho detto, e vedi, così vedo un pochino come esce, se rende bene. Esce bene quindi? Non lo so, non l'ho sentito ancora io Carlo, penso che esca bene. Sono curioso anch'io di sentirlo con il coso, a parte voglio vedere il segnale che arriva, che chissà quanto arrivi con la radio, ma tu c'ha 15 watt. Eia, c'ha anche sapenza con il microfono, quindi figurati se pompa. L'hai visto quel tipo, quel radioamatore che ha costruito Saturneco con analizzatore di spettro, misuratore di goso, di modulazione, tutto digitale, DSP, una bestia di cosa, l'hai visto? Già l'ho visto, gli ho anche scritto, ho detto ma dove l'hai comprato? No, dice l'ho costruito io, mi ha detto. Mi ha detto che c'è solo un metodo intenzionato a costruirli e a costruirne altri, mi ha detto. Devo solo procurarmi un po' di qui Saturneco, modello, mi sembra che è il turbo in pratica, che c'è quei pulsanti rettangolari sotto, hai capito? E poi ce li vende, non so quanto, ma io penso che almeno intorno a 1200 euro, se non 700 euro te lo venderà, senz'altro. Perché c'è tutto di più, sembra una pretra da rematoriale, quando l'ho visto sono rimasto secco, di tutto c'è, addirittura mi ha fatto un modello che ci ha messo la scheda dei 40-45 dentro. C'ha tutto, che neanche molti apparati di altissimo livello ce l'hanno, c'è anche Waterford, quello che tira la cascata della modulazione dei segnali, analizzatore di spettro, DSP, i filtri larghi, stretti, puoi regolare tutto, frequenze di metro meglio del 440 come precisione, l'indicatore è proprio una bellissima radio, ma quello non si può vendere meno di 1000 euro facendola in serie, se ti consideri come rifare tu, come farti serigraffare il frontalino, fai metterci tutti gli strumenti, non ti batteranno 2000 euro se uno si mette a farlo una cosa del genere, comprando tutti i pezzi, se lo fai in grande serie non lo puoi vendere secondo me meno di 1000-1500 euro, c'è tutto come una parata KF. Sì, io penso che quello lì senz'altro si rifà a costruire da qualche ditta, capito? E ci vuole un sacco di soldi, quello te lo dico io. Allora magari qualche ditta gli dice guarda, io l'ho costruito così, fatelo così come l'ho costruito io. E magari ce li venderà pure, cosa ne so. Il brevetto penso che già se lo venda, perché non è veramente bello come apparecchio, guarda. Se trova uno che ha un bel soldi, qualche ditta che ha un bel soldi di fare in serie con gli apparecchi, sai quante ne vende? Un bel po', guarda. Sì, è bello, poi c'ha il coso, il frontalino touch screen, certo se si rompe non so cosa ne vai, però è bellissimo, proprio veramente bello. Sembra come quegli apparati, ma di altissimo livello amatoriale, neanche apparecchi tipo 7003 della ICOM, cose così a quei livelli, però è molto più grande, con l'alimentatore dentro contenuto, 100 watt, c'ha tutto per essere un apparato alla 27, sintonia continua, bellissimo, lo puoi canalizzare. Già lo so, già. Invece c'è uno spagnolo che fa gli apparecchi con la chiamata vocale, cioè non vocale, la chiamata con le musichette. Sei musichette in pratica sono. Sia per la chiamata e sia per l'ascolto. Non so se l'hai visto, è spagnolo addirittura. Cambia i frontalini, cambia, mette quelli, quei frontalini modello nuovo, lo fa tutti gli apparecchi. L'ha fatto addirittura nel in un 2009, poi l'avevo fatto come si chiama l'altro, l'ho avuto anch'io, non mi viene in mente il nome, quello celeste, e anche quello lì, l'avevo modificato, era bello veramente, e c'è gente che si diverte, fare modifiche eccetera eccetera, e inventa di tutto di più in vetta. Ma ovviamente quello che ho bisogno è che poi c'è anche un display e ti dice welcome, benvenuto, poi ti puoi scegliere il messaggio di coso, la registrazione vocale ti fa, ti puoi fare un messaggio, un piccolo messaggio. C'è un bel gente che fa modifiche, su YouTube dici di tutto di più c'è. Oramai tutti, ho visto la piragge, lasciata la sopra chi, ha avuto certa gente cazzo che si mette a giostare il cazzo con coso, per avere in gas. Non è visto, non gli lancia fiamme, quello vanno bene in Ucraina, quando passano il carro armato lo fai a vostro, lo fai. Eia, lasciamo un attimo nel bianco se qualcuno vuole entrare. Avanti sul 10, se no riprendi tu Antonio, non vedi nessuno. C'era una telefonata di operazione due secondi fa, c'era uno da lavoro, ma era basso, era trattato Santiago 3-5, una cosa del genere. Non ho capito, dove Santiago 3-5, dove? Ho sentito un'ora, poi non l'ho più sentito su questo canale. Il QRM ce l'ha 7, per cui non si tende un euro. No, il QRM ce l'ha uno, io potrei dire 9. Meno male, sento tutto chiaro, sento. Anche con Connex 4000 la vetta. E sento tutti chiari, sento. No, questo è molto rumoroso come la radio, però ti tira fuori tutto. Cioè un segnale che magari la media lo riceve 5, 6, qua arriva 9, perché prende un po' di mondezza, però già riesce a tirarli fuori segnali molto, che altri vari assassini non prendono, zone di Alghero, gente da lontano, riesco a tirarli fuori, come te sicuramente è uguale perché siamo in alto. In alto già sono in alto, l'unico problema è che io ho i cavi della quindicina vicino, quindi se dovesse fare temporale sono in mezzo al triangolo delle Bermude, sono io, capito? C'ho ripetitori telefonici di fronte alla finestra di casa, neanche a 200 metri di distanza. Poi c'è come si chiama, da qui da 15.000 ai Tralici, che rimane proprio all'angolo della via mia. Dopodiché ci sono tre punti, c'è la fulmine, quindi figurati tu, allora il signore di Roma vicino. Vabbè, che parafulmine c'era anche l'otto del Carlo Felice. Appunto, c'era anche parafulmine lì, a quelle antenne che l'ha messo da poco. Quindi figurati, io parecchie volte mi diverto, prendo il tester, il puntale del tester, lo metto in corrente continua senza farli agganciare in nessun posto, li metto dritti fuori dalla finestra e mi segna 10-12 volts, 15. Figurati, roba di campo elettrostatico c'è. Allora, io è una cosa allucinante qua. Ancora devo fare la colpa, qualche lampada merda se si accende da sola. Quanti volte c'è quella radio che sto utilizzando? 15, sono di tutti. 9 più 50, sì, qua da me. E di lì come è arrivato lo strumentino? Sì, 9 e 30, tondo. Ah, non arriva a fondo scala. A fondo scala più di 30 non ci va questo, l'ho regolato io lo Smith, quindi credo che arriva a 9,20, tu arrivi a 9,30 qua. Non ci va incollato giù in fondo questo, capito? Anche perché lo Smith originale è veramente diverso, questo è un Smith che avevo recuperato da un altro barattino che mi avevo donato per pezzi. E infatti ci ho infilato quello Smith lì, che era grande quanto l'originale, capito? scappa, però esce molto bene, c'è una bella modulazione pulita, non viene a brutto. Ah, quello sì, io lo so che non c'è da brutto, a cazzo è anche cambiata, quindi figurati. Era perfetto con il microfono, non gli ho fatto nessuna modifica alle MP4, ho lasciato originale così com'è sopra e basta. L'unica cosa è la capsula, l'ho cambiato sopra e gli ho messo il cottone, poi la capsula sua l'ho conservata insieme alla piastina metallica originale, nel caso magari qualcuno, come mi è sempre capitato, che me lo vendi e glielo davo. Allora se lo voleva con la capsula originale, gli mettevo la capsula originale con la parte metallica sua. E la scatola attualmente, c'è la scatola con col foglio come ci sono scritti, come si chiama, i cavetti, capito, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, e c'è scritto uno basta fare questo, l'altro RF, eccetera, eccetera. Adesso quando li vendono gli MB più 4 più 5 li danno senza lo spinotto, l'hai visto? No, io ho sempre preso con lo spinotto. Va bene, ho comprato 4, ho cominciato prima avevo comprato intorno ai 35-40 euro, poi si è stato a 50, a 50, a 50, a 60, l'ultimo costo qui 70 euro. Ma la fusata l'hai preso? Allora, sembrava Giorgio Rossi, sembrava io, dico, caspita, l'ho pigliato neanche 2 mesi fa, io ho così tanto che costano questi microfoni. Sono saliti tanto, adesso arrivano ancora ai prezzi di questi microfoni. Un pezzo di fare con un circuitino da 3 lire e una capsula microfonica. Già lo so. Cazzo, l'altra volta stavo prendendo le mie PC, solo che c'era tutto quanto schiacciato. Dice, pirato lo stesso, dice Antonè, cosa... l'altro dice non lo vede nessuno, cazzo ho detto non lo vede nessuno, è a casa, ha detto vieni, un sacco di amici, ha detto guarda, se vedo un microfono di si mettono una vita, ha detto tutto quanto, allora preso me l'ha cambiato, ha detto dammi più 4, gli ho detto e mi ha preso la differenza del P5 che ti ho dato. Allora, con l'antenna che c'è montata tu, quella delle VHF, cos'è VHF mi immagino, dove è puntata? A Monte Oro, al ripetitore. A Monte Oro? Sì, a Monte Oro. Che c'è a Monte Oro? L'ho puntata così, perché è l'unico punto che sento a destra e a sinistra, bene, capito? Perché se la punto dalla parte del bordo, l'altra parte non la sento. Così com'è sento anche Alghero. Va bene, non c'è bisogno, per la leggera basta la verticale, arrivano tutti a bomba da me. No, per magari quel ponte della Liguria, quel ponte che ci sono nelle Alpi Marittime, quello c'è un po' di movimento nelle VHF. Va bene, io non ho poche appena lì ci fanno, io lo uso più che altro in PMR, questa antenna, PMR e l'EPB, in VHF è poco e nulla. Per il VHF c'è la X300 da piazzare, la sto pulendo adesso, perché la regia meteo si alza e cavolo era tutto quanto in corto, era. Allora ho preso, sceso laggiù e adesso devo nuovo ripiazzarla. Cappa, vediamo se Luca è rientrato o se sta lavorando. Mi sono vedendo di sottofondo la partita 0-0 Real Madrid e Manchester City. Ah, adesso la squadra ucraina, quanto sembra, gioca quest'anno, e invece quella russa li hanno buttati tutti fuori, non c'è più neanche una squadra russa, erano tutte eliminate. In tutti gli sport li hanno allontanati, vabbè, io non è che siamo molto d'accordo di questo fatto qua, lo sport è un'altra cosa, la politica è una cosa, lo sport è un'altra, così anche quel tempista Mendiev, quello numero 1, numero 2 del mondo, numero 3 del mondo, non lo fanno giocare, e a Wimbledon forse in Italia, forse, ma l'Italia è un cagabandieri, segue sempre la bandiera dove gli conviene. Ah, io guarda, mi ricordo che quando c'erano i tedeschi, gli olimpiadi, anche se c'era tempo di guerra, giocavano tutti, non è che hai capito, noi non facciamo gioco, giocavano tutte le squadre che c'erano al mondo, la verità, compresi gli americani, eccetera, eccetera. Hai cambiato tutto, è scuola ma di, hai capito, di là. Lo sport deve stare al di fuori dalla politica, naturalmente lo sportivo deve parlare di sport, non di politica, mettersi per dire un simbolo di guerra, cosa del genere, come ha fatto quello, non mi ricordo che sport era, il ciclista o cosa era, boh. Cioè se tu devi fare lo sportivo, se lo piace, non devi utilizzare nessun simbolo di guerra, solo la bandiera della tua nazione. Boh. Ah beh, quello sì, vabbè, adesso i russi usano quella specie di Z. Cosa cazzo voglia dire la verità? La zeta di Zorro. La zeta è la stilizzazione della croce ortodossa, perché la croce ortodossa ha delle specie di non è come la croce normale nostra che senza cosa, c'ha delle specie di pieghe, dai, come descrivo, adesso non so come fatelo per spiegartelo, e loro l'hanno stilizzata invece una zeta, l'hanno capovolta. Ah, ho capito, questo è quello. Infatti non ci va a capire cosa diavolo ha messo quella zeta. Oh Giulia, intanto se vendiamo qualcuno mi inventa. Per carità. Non si è sentito nessuno stasera? Ma poca gente stasera. Poca gente, poca gente. La Mantova comunque la tiene bassa, Antonio, peccato, tu c'hai una posizione strategica, se fosse stata almeno un 2-3 metri più in alto, guai. Allora si vede dove hai fatto l'affare già, e si muovono le quelle tre caffette che ci ho messo, che sono agganciate alla gamba della parabola, mi trovo, e Mantova tutta giù mi trovo, ecco perché l'ho lasciata a 3 metri, adesso quando cambio il palo, mi faccio saldare, siccome la parabola l'ho staccata, quindi mi hanno regalato la trappola e mi metto tutto quanto di valenza, la prima faccio saldare il palo, dopodiché prendo sollevo di almeno un paio, 2-3 metri in più, mi metto in tirante e è fatta. Ma tu da lì domini tutto, non hai lo strappo, non fai nulla, sfasci tutti, ti metti una bella radio, un bel baracchino e stai andando alla grande. Vabbè, adesso ho questi palazzi che sono più alti di me di 2 piani, quindi devo sollevare almeno 6 metri, per essere giusto, 6 metri dal petto, per andare meglio. So che lo sai che tu la mano ma pesami, non è... casino, poi c'era per qualche primo periodo la doppia tappa con palo a 6 metri, tu dovevi sentire quando faceva il vento, rischiava il palo. Me l'ha detto, io non me ne accorgo sinceramente, ma Giulio dice l'ha dovuto abbassare la turbo perché dice ogni fruscio. Fisca anche la 5 fisca, non è solo la turbo. Tutto un altro fisca, ci vorrebbe un tappo sotto, hai capito? Vabbè, quello del fischio già si può eliminare, li puoi mettere un anello, qualche cosa in plastica, fare delle prove, perché vedono degli anelli per irrobustire il coso, i radiali. Ho capito. A me piace solo i radiali, adesso devo... Tu in questi giorni li metto apposta, salvo con la stavitina, salvo e lo ripiazzo. Così a me li metto la vittina con l'arrivo piccolino e è fatta. Poi... dopo di scappare appena e ripasso un po' di quella vernice alluminio, come sparai, anche se avessi, non è che li faccia molto, almeno la presa era almeno per un altro anno, dopodiché se la piglia in culo la cambierò, ci metterò qualche altra antenna, già ce ne sono altre antenne in giro. La mia, grazie a Dio, è perfetta. I radiali, ogni tanto si attacca qualche cornacchia, ma non si sono mai rotti. Poi, di scorsa c'è la Mantova Turbo di Salvatore Maestrale, nuova, proprio lucida quella. Ah, beh, auguri allora. Ma già ne ho avuto antenne io. Ho avuto la Firenze 2, ho avuto la... non avevo avuto la Gran Prix Autoremicchia, molto radiale, sembrava il coso di un tovanaio, dopo di quello avevo piazzato la Firenze 2, dopo quello la Firenze 2 c'avevo la Super Regibus, e poi due direttive c'avevo, cioè una direttiva c'aveva, cioè, una vada galata, Mario, una radiomata che era morto parecchi anni fa. E più una per peccare di quelle con le cariche. Poi la direttiva l'avevo portata di qui e l'avevo regalata. Cioè, proprio mi ha detto, ci sarà salito su, c'è il butto fuori di casa, mi ha detto. Allora ho preso e l'avevo regalata a coso, a Campanella. No, anche io ce l'ho una direttiva a quattro elementi, avevo fatto uno scambio, avevo l'altro elementi, l'avevo data a Claudio, quella della, cos'è, della LEM, boh, non me lo ricordo neanche se era LEM o CTE, qualcosa del genere. L'ho tolta un pochettino con rotore, pure alla fine l'ho tolta. E poi c'ho sempre questa a quattro elementi, ma un bel man a me, non so se fa la modifica, intanto adesso devo mettere quella cubica, quella che mi ha venduto Walter, che quella lì ci puoi mettere anche i 6 metri, puoi fare accordo anche perché c'ha 10, 15, 20 e si possono mettere anche i 6 metri, la puoi accordare anche per dire sugli 11 metri, se vuoi. Già va bene. No, io erano da due elementi questa, faceva 10, 15 e 20, se lo ricordo male. E il gazzetto spuntava, detto, dice, non ti venga a mettere, dice, portata su via, vado a basso, ma detto che se no ti butto di fuori di casa, dice, regala a chiunque vuoi, ma su non è portare. Quindi infatti l'avevo regalata a uno di Campanella. Piazzata l'altro in campagna, infatti c'era piazzata in campagna, lì ci abitava Simba e lo usava lui con l'antenna, usciva bene, usciva. Poi un giorno si è incazzato, ha preso e ci ha passato contattore sotto e l'ha staccata tutta, era acciaio, era dei vitti, era veramente fatta bene quell'antenna. Anche adesso mi ricordo c'è anche una piccola a due elementi, sempre per gli 11 metri, che mi ha dato stesso Salvatore Maestrale, mi ha regalato un sacco, anche cavo mi aveva dato, un baracchino, un piccolino, l'avevo messo nel camper, cosa che non mi ha dato, un sacco di roba lui. Ci siamo sentiti l'altro giorno, ci sentiamo spesso, lui è in Austria, non so se lo sapevi, e, diciamo sta lavorando come un animale perché fa le ture di notte, lavora in una fabbrica che fanno pannelli solari, di roba di calore che poi devono fare nel periodo del Covid, erano con le mascherine, ogni due ore si dovevano fermare, uscire fuori perché dice ci sono 80 gradi, è peggio che lavori in un forno di pane, dice un calore, dice, e gli impianti sono 24 ore su 24 accesi, c'è un caldo, dice, da morire. Avanti, ciao Claudio, mi hai risentito dopo tanti secoli. E beh, tutto a posto? Sì, in linea massima, sì, dai. Non ci possiamo lamentare, c'è di peggio, dai, c'è gente che fa peggio. Io, ciao Claudio, mi hai sentito anche a te. Ma io ti sento qualche volta quando vai ai Cariati a parlare con Uzziri. Ti ho sentito parecchie volte, solo che Uzziri non lo sento più io. Prima lo sentivo, ma non vedo più. Capito, sì, era poi la torre di San Nicola, ho sentito, adesso niente, boh. La lampada è invecchiata, cosa cavo adesso? Io li sentivo bassi bassi, però li ascoltavo tempo fa, ma molte volte loro parlavano tardi e per quello pure che non li ascoltavamo, però c'è da dire che adesso con tutto rete cellulari, stazioni broadcasting eccetera eccetera, hanno attenuato parecchio il segnale, per dire 10 anni fa con pochi watt riuscivi a entrare, a fare, a ascoltare, adesso nulla, c'è un inquinamento elettromagnetico allucinante. E domani dovrebbe piovere quando sembra. Speriamo che non faccia niente, poi dove sono quello di Caglia il dottor Mari ci dovrebbe essere temporale, speriamo che non lo faccia qua, che se no se arriva a temporale d'olio Alghero tappa di, e allora ti ha parlato davvero, quelli scendono lì. L'altra volta, cazzo, uno ne ha fatto il tuono, un fulmine, dopo mezz'ora ho sentito i pompieri salire, è stato beccato in pieno da gli accarbonati, vabbè, il, come si chiama, la cabina, è saltato tutto in aria, è saltato. Quando entra la cammina fa un po' di danno, mi vedi? Uno mi ha fatto, un tuono e un fulmine, dopo ho sentito i pompieri salire, quando ho sentito i pompieri salire gli ho fatto, questo ha preso la cabina in piena. Oh, sto guardando le previsioni, domani piove, ma il picco è venerdì, poi da sabato li fa migliorare, però piove un pochettino, fa anche sabato domenica. Sì, però che non faccia temporale, poi se piove già fa bene, capito, ai terreni eccetera eccetera. Il brutto se arriva qualche temporale da parte di Alghero, quando sono tutti davvero quei temporali, perché poi quando scaricano, venuto arriva fulmine al naso, dopo c'è il capo, in qualsiasi posto scende, poi qua sono in mezzo io, via, devo attaccare tutti i piedi, devo attaccare, buttarli tutti in terra e spostarmi dall'erario. E qua con tutto quello che c'è dentro, in questa camera, se entra un fulmine è guai, mi avvoco tutta la gamba a me. Per me Claudio, invece la radio nuova. Tornare ce ne sono tante. C'è un ICO MC, è della 9000 condizioni perfette ICO, il C2 c'è il 271, UHF 144, 145, adesso 20 ore fa. Intanto si mettono a vendere qualche cosa. L'FT5000 è una delle migliori radio mai costruite, Claudio. Addirittura, se tu senti Daniele Frignani, quello ingegnere della Magnum, lui si è preso l'ultimo della IAESU, che era il top del top considerato, sono stato svendendo, ha fatto i confronti, ha detto preferisco 10.000 volte l'FT5000, perché dice una radio meno rumorosa, anche se a livello di gestione sono uguali, più o meno hanno fatto le prove e con le stesse antenne, però lui preferisco, dice, sono assolutamente deluso, l'FT, non mi ricordo se è il 991, il top della IAESU, quello che ha sostituito l'FT 9000. Chi ha l'FT 5000 se lo tiene, è una delle migliori radio mai costruite. Ho visto una foto di un tipo che c'era la stazione Marconiata, c'era tutto i pezzi, barbole, tutto appese al muro. Se guardi il sito CB Veterani, ha iniziato tanti appassionati degli ex, si chiama Gianfranco Bau, questo dove fare. A me se non c'è la mia stazione vintage, se la guardi sembra di quella radio di quando c'era il tempo di guerra dei tedeschi, tutto appeso al muro, con il sensore, c'è solo un attore, l'altoparlante quello grande tipo con la mofo, cioè, bello, lui sta adesso. Dimmi una cosa Claudio, ma questo che lo sta vendendo è un radioamatore o un CB? Ah beh, guarda che è vero. Adesso non è che ti puoi riempire, vabbè tu sei appassionato, io riempimi la casa di un bel detaglio, non fa capito. Quindi no, c'ho questa, 1, 2, 3 con quello omologato, 4 con Saturnecco. Quindi scusate per attivare il telefono, se mi pigli altre 15-20 radio omaggio la radio oppure vado a dare il culo a altre, il discorso è quello. Avessi avuto magari, fosse stato lavorando avendo un buon stipendio, allora sì, avete anche pensato per dire a divertirmi a comprare un po' in qualche radio così a provarla. Di quelli vecchio modello tipo le PT250 che facevo una volta, quello era bello, era sotto banda stretta, 100 watt d'uscita, era bello con l'apparecchio. L'unica cosa in brutto era che tirava la scossa. Cosa hai fatto? Va bene. In effetti 7B è bellino, la vecchia 250. E qualche altra radio così. Qualche cavolo tipo 120 mi sembra che era. Già ce ne sono di quegli apparecchi ancora in giro. Ora non vecchio, ma... Ok, avanti, va bene. No, ma FT5000 c'ha 200 watt, non è uno scherzo, è una radio con alimentatore retrocontenuto, una bestia di radio, è il doppio del 440, del 940, il 940 è grande quello che ho io, è più umano una volta e mezza, è una bestia di radio, come l'FT1000, sono grandissime radio, ma il 5000, mi meraviglia che uno si vende al 5000, non c'ha problemi la radio, anche se sinceramente non ne ho mai sentito di gente lamentandosi di difetti tipo come può averli 440, l'850 lasciamo perdere che c'ho un paio di amici, uno ultimamente l'ha tenuto spento per qualche mese, è andato a accenderlo tutto spento, tutto puntini, ha grossissimi difetti, a quel punto ti aggiungi qualcosa e ti prendi un 950 se ti piace quel genere di radio, solo che a te non ti piacciono i display a lancette, cioè i digitali, ma sono belli quegli indicatori del coso del 950, una grandissima radio superiore per certi versi a 40, veramente bella radio, però le 25.000 stavo parlando da rumori su delle radio. Sì, 757, così tira una trentina di watt, 25-30 watt in M, ma da naturale tira 100 watt, diciamo, naturalmente potenza di picco, non continua. No, ma ti ascolto molto bene, sei 9 quasi 9 più 20 dalle mie parti, la radio è bella, chiara e pulita, che microfono metto ci hai messo lì? Scusa, un MC50 è il microfono, non è il solito mio, lo sai Fabio. No, no, è il top, il sogno di tantissimi radioamatori. La radio costava roba di sé, non dico 6.000 euro, ma sui 5.000 euro li superava pure quella radio quando è uscita. Una grandissima radio, c'ha doppio ricevitore, doppio trasmettitore, DSP, c'ha tutti, era il top della, della IAESU, quello lì, sino a qualche anno fa. Poi era uscito il DFT 9000, che molta gente non è soddisfatto, leggermente più come si chiama, più con qualche cosettina in più l'hanno messo, ma la base era sempre 5.000, le hanno cambiato qualche fesseria, però la radio era la stessa, non cambiava nulla. È una grandissima radio, letto da tutti i radioamatori, il top, uno delle radio top in assoluto. Beh, se metti per dove abiti tu, io non te lo consiglio. Mettere un bel tubo d'acqua, quelli grossi, sui 4 metri, non più di 4 metri, così eviti anche la tiranteria e va più che bene. Poi uso un palo bello grosso, cioè quel tabo, il palo d'almine da 48, che sono grossi e indistruttibili. Ti metti uno di quei pali, non c'è neanche bisogno di tiranti. 6 metri, devi iniziare a mettere i tiranti, tanto non è che guadagni più di tanto, tra mettere 4 e 6 sei abbastanza in alto. Con l'antenna è 8,50 m, non è uno scherzo, la J-Pod, una grande antenna, però se tu ci metti 6 metri di palo più 8 metri di antenna sono già 14 metri, ecco, le oscillazioni non è uno scherzo. Carlo mi ha tolto lo scettro a Claudio come torre di controllo, prima la Sassari era numero uno, Claudio adesso si è spostato, ha guadagnato da altre parti, però dalla città, quelle della città il segnale più forte in assoluto ce l'ha coso. Carlo, è allucinante, a me mi arriva a 9,50 e con l'altro baracchino, quello più potente, arriva a 9,60, c'ha un segnale da paura, lui con 5 watt arriva a 9,50, nessuno qua ha mai avuto un segnale così forte, e non è che siamo attaccati a 100 metri, saremo in linea d'aria, saremo 800 metri, però quegli altri che erano vicini a 5 watt nessuno arrivava così forte, adesso è una bomba, solo Claudio quando era lui a cosa, a Carbonazzi, con quei segnali arrivava, non ce n'è per nessuno adesso, numero uno è lui, e guarda se si mette un 440, una radio che spingono con i picchi di modulazione. Guarda, non mi ricordo se sono entrato avanti ieri e c'era. Già sta entrando, sì. Poi si era allontanato, doveva fare. Ha fatto un operatore con Antonello Pompugno, uno scambio provvisorio, gli ha dato il Galaxy Saturn e lui gli ha riprestato il 3009, infatti Antonello sta uscendo col 3009 di coso, di callo, esce una meraviglia, benissimo, anche con Saturnetto usciva bene, ma quel 3009 proprio gli si addice come modulazione alla sua voce, veramente bene. E volevo sentire, curioso di sentire con sua Delta Carlo come usciva, perché volevo sentirlo proprio. Scusa, devo notare un secondo e arrivo subito. Ma come sei entrato? Io sono entrato. Mi sono fatto la cavolta perché ho mangiato di quelle. Come si dice? La fattura dei funghi. E mi sono ammazzato lo stomaco. E quindi mi sono fatto la cavolta con lei. Adesso dovevo fare qualche minuto, devo aspettare. sono rientrato. La bicicletta già fa bene. Io ho la bicicletta in garage. Sono cercato di portarmela su e a casa. E così vi faccio un po' di giri di bicicletta, tanto che a uscire, perché a fare la spesa non sto andando, quindi devo rimanere qui per stare vicino a Simona, eccetera, eccetera, perché non sta bene. Quindi a un certo punto adesso gira, me ne salgo la bicicletta su, così faccio finta che sono mezzo strada e faccio un po' di giri di bicicletta. Dopo già c'è i rapporti, basta regolare la vite, se la fa più duro oppure più mobile la pedaliera, cioè. Avanti, vabbè. Scappa, però la bicicletta, anche a me piace andare in bicicletta, però ci vuole allenamento, ho visto che Claudio è allenato, fa un sacco di strada, io la volta che sono andato mi bagli 3 anni fa, ogni domenica mi decido, dico dai mi prendo la bicicletta, vado a farmi un giro e poi tra una cosa e l'altra, o c'è brutto tempo, devo andare da altre parti, se no una mountain bike così, ma vado con la macchina, me la carico nel doblò, mi fermo, mi butto giù e poi me ne ritorno in macchina, no, non ci riesco, almeno non c'ho l'allenamento, quando facevo calcio sì ero allenato, ma adesso le gambe non c'è più niente, non c'è muscolatura e basta faccio una corsetta mi sento già l'acido lattico. Cambiamo discorso, Claudio, asparagi ne hai visto in giro? Fatto assaggiare tu, cazzo che saranno muri, erano vicino a San Martino, li avevi presi, no, se non sbaglio. Thank you. va, va bene. Io per quando vado, quando vado a fare il filo, qui faccio la roccia, dai lo spi, sugli attori. Tanto durano due giorni, tanto diventano subito lì, peggio del banale. Non vai a comprare il banale allo spigo. Le tue viverti bagnate con l'acqua, dopo due giorni nere come carbone. Ma come le fanno maturare nel coso? Nei freezer? Ma la cosa allucinante, aiuta. Le prendi verdi, ma talmente verdi che sembrano foglie. Dopo due giorni che da come si chiama la frizza, immediatamente si prendono gialle e nere come carbone all'interno e non servono per niente, non sa quante quante ne buttate di quella roba. Scusate, finocchi sembrano venire da fuori, all'interno sono gialleri come il carbone, già tutte vacci, perché tutti i giorni li bagnano, capito, li mettono nel frigo, poi li sputano l'acqua, poi te li mettono nuovo in vendita. Uia. Ragazzi, io me ne passo in corretti, ci sentiamo domani allora. Ok, statemi bene e ci sentiamo domani sera, allora. Ok, a ciao, dai, ben sentito, ci sentiamo prossimamente. Vai Claudio. Dimmi un po', quindi hai ascoltato nelle voci, hai ascoltato le bande radioamatoriali?